fine libro ci sono tre interviste che arricchiscono, diciamo, il tuo studio dei film. Come hai scelto le varie persone? Tra l'altro racconti alcuni incontri avventurosi, sei soddisfatto di quello che hai ottenuto? Sì, guarda, la scelta è stata che, cioè l'idea è stata di aggiungere alla fine del libro, come una sorta di appendice, alcune interviste per cercare di esplorare il più da vicino possibile il mondo del cinema di Rodriguez e di chi avesse lavorato con lui a stretto contatto. E perché proprio quei tre? Semplicemente perché sono stati i tre che hanno risposto, hanno consentito. Volevamo fare anche altre interviste all'attore Michael Parks, che fa il Ranger sia nei film di Rodriguez che nei film di Tarantino, storico attore televisivo e di B-movie e di genere americano, però non se ne è fatto più niente. L'avevamo contattato via email, poi a un certo punto non ha più risposto, quindi non è stato possibile fare l'intervista. E così come pure volevo intervistare Don Savini tramite il suo sito, c'è un indirizzo email, però alla fine ci siamo riusciti. E sia la sorella di Rodriguez, invece, che Tito LaRiva, leader di Tito e Tarantula, che hanno collaborato con lui nei primi film, con colonne sonore e anche come attori, e che Cheech Marin invece hanno consentito chi personalmente, chi telefonicamente, a fare queste interviste. E devo dire, mi sono trovato molto bene. È stato, come ho scritto nei ringraziamenti, mi hanno mostrato la grandezza delle loro persone al di là dei personaggi, perché sono stati veramente gentili, come se fossimo, addirittura come se fossimo amici da sempre. In particolare la sorella di Rodriguez e Tito LaRiva, che è una persona veramente in gamba e simpatica, e soprattutto sono stati prodighi di aneddoti sul giovane Rodriguez, molto divertenti sia per uno studioso che per un fan, che poi anche io sono fan di Rodriguez per quello che ho fatto il libro. E per esempio Tito LaRiva raccontava come a un concerto dei Cruzados, che era la sua vecchia band, il batterista avesse lanciato le bacchette e un giovane Rodriguez tra il pubblico l'avesse presa al volo, oppure la sorella raccontava aspetti di quando erano più piccoli, e soprattutto ha raccontato la determinazione che gli ha permesso di arrivare a fare quello che fa oggi, perché mi ha raccontato come quando da piccoli lei gli chiedeva: tu che farai da grande? E lui la guardò e le disse: io farò il regista, con questa decisione qua. E lei, insomma, mi ha raccontato che questa cosa la colpì, perché di solito tutti dicono: ma io vorrei fare, io farò, invece lui con decisione ha detto: io farò il regista, e quello ha fatto. E lo stesso lei, che disse: allora io, ah sì, allora io farò la cantante. E così hanno fatto tutti e due, insomma. Quindi secondo me è una certa positività e una certa propositività, e crederci, insomma, paga a volte. Nel loro caso perlomeno ha pagato.